Ho provato a stare senza di te, ma poi mi appassivo. Il cielo diventava plumbeo, plum cake, plastico. I giorni non sterzavano più in curva. Anche il mio rapporto con i gatti diventava difficile. E mi pareva che tutto mancasse di sostegno, che gli alberi si afflosciassero e anche le auto se ne andassero in giro stancamente. Ho provato a stare senza di te, ma poi mi appassivo e non capivo la funzione della ghiaia, ma continuavo, sì, continuavo a pensarci senza motivo.